America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, siamo a Central Park. Questa serata che vi faccio ascoltare l'ho registrata appena qualche ora fa nella notte newyorkese e sentite di sottofondo il grande cantante tenore Bocelli che sta cantando davanti a una folla forse di 100.000 persone qui a New York, dove c'è una piccola pioggerella abbastanza insistente e in questo momento diciamo un po' di difficoltà per il nostro paese. È straordinariamente gradevole vedere che ci sia una folla qui ad ascoltare una grande manifestazione di Italia e italianità, perché dietro questo concerto c'è Barilla, quindi uno sponsor italiano, spaghetti, pasta serviti prima del concerto. Ma mi fermo un attimo e sentiamo direttamente il nostro cantante con i newyorkesi al parco. L'alma mia si prostra a te e pien di speme si prostra ai tuoi piedi. Siamo qua con Paolo Barilla proprio a Central Park e gli chiediamo, un concerto di questo genere, io ne ho visti altri, sono molto molto costosi, alcuni milioni di dollari si dice. Voi avete fatto un investimento importante che avete regalato a New York, c'è una strategia di comunicazione? È la strategia che fa parte della storia della società, che è rappresentarsi e rappresentare il meglio dell'Italia. Abbiamo avuto questa straordinaria opportunità di essere associati con il maestro Bocelli, per noi è un onore perché lui è un'eccellenza riconosciuta da tutti e noi pensiamo di poter contribuire anche con la nostra presenza con i prodotti italiani ad affascinare a tutti gli americani. Una curiosità, il programma lo avete scelto insieme, ne avete parlato? No, le scelte artistiche sono di competenza del maestro, d'altronde più competente di lui non esiste, per cui noi siamo solo dei supporter. Poi noi ci siamo occupati della ristorazione, della promozione, perché sono quelle cose che ci competono, siamo impegnati da più di un anno su questo progetto, per cui è una cosa molto rilevante ed è una di quelle cose che poi rimane nei libri di storia della società, e la storia delle società è fatta da tanti piccoli eventi, ma ogni tanto quando si può si fanno delle cose straordinarie. Perché New York e non San Francisco o Chicago? Ma New York è un simbolo e Central Park è l'eccellenza del luogo per un artista. Questi sono luoghi che vengono concessi molto raramente e devono essere concessi a personalità straordinarie, per cui ripeto, per noi è anche un grandissimo onore essere stati accettati e essere qua. Ecco, parliamo di business, parliamo di pasta. Come vanno le cose in America? Voi avete una posizione piuttosto importante, ci può dare un'idea di come gli americani si rapportano con la pasta e di come ovviamente si rapportano con la vostra azienda? Gli americani considerano che la pasta deve essere italiana. L'industria si inserisce in un percorso storico che parte da lontano e oggi noi beneficiamo, diciamo, di una posizione molto rilevante perché siamo il market leader. Con grande soddisfazione abbiamo il 28% di quota di mercato e abbiamo grandi progetti anche per il futuro. Ecco, quanto vendete di pasta in America ogni anno più o meno? Ma in America vendiamo quello che è l'equivalente di 2 miliardi di piatti di pasta e pensiamo comunque che ci sia spazio per fare altre cose, perché il cibo italiano è sempre molto apprezzato, bisogna lavorare sempre tanto sulla qualità e poi anche comunque sull'immagine, perché un prodotto è fatto da quello che percepisci e quel che vedi o quel che pensi. Futuro in America, espansione, quanti impianti avete? Volete investire di più? Abbiamo due stabilimenti che sono molto produttivi e ne siamo molto felici. Adesso stiamo guardando ad altre opportunità per fare altri piatti che possano andare incontro anche allo stile di vita delle persone che soprattutto qua negli Stati Uniti dedicano ai pasti tempi molto ridotti, per cui vogliono anche tempi di cottura rapidi. Per esempio, cosa state pensando? Ci vogliono dei piatti pronti, dei piatti da microonde, però bisogna farli considerando che il termine di qualità come noi lo intendiamo non venga mai tradito. Ecco, voi avete anche avviato un progetto di ricerca per l'alimentazione qua in America, con delle università americane, può darci un'idea di che risultati avete avuto? La pasta fa bene o fa male? Ma per noi fa bene, però fa bene nel senso che bisogna essere molto equilibrati a consumare nelle corrette razioni tutti i prodotti, che siano verdure, la frutta, i cereali integrali, poi gli oli come l'olio d'oliva e i grassi. Ci vuole molto equilibrio e molto conoscenza, per cui ci stiamo occupando molto di questo, perché consideriamo che è una nostra responsabilità e un nostro dovere di dare delle informazioni molto complete. E per esempio, se deve dare un consiglio ai nostri ascoltatori, quanta pasta devono mangiare alla settimana? Ma io posso dire quella che mangio io, perché io la mangio una volta al giorno, che è un piatto da 120 grammi. La condisco con olio parmigiano, soprattutto perché è la mia ricetta preferita, poi ogni tanto al pomodoro. E scusi, che pasta? Beh, la pasta... Spaghetto, pasta corta, farfalla. Io sono un amante dello spaghetto, oppure dei formati, ogni tanto quelli napoletani, quelli grossi. Però la nutrizione deve variare. Quello che noi dobbiamo limitare, e vale per tutti, sono gli zuccheri, il sale e i grassi. Avete anche fatto degli studi sui pomodori, sui contenuti, insomma, per togliere quella componente di acidità. Quindi noi pigliamo un piatto di pasta, ci sembra tutto molto facile, ma dietro c'è una grande ricerca. Ci può raccontare che cosa avete scoperto? Ma su ogni prodotto si può fare un percorso di miglioramento. Ci siamo occupati del pomodoro, perché il pomodoro è il condimento della pasta. Abbiamo selezionato delle varietà di semi che danno un certo risultato dal punto di vista del gusto, e lo stiamo mettendo nei nostri sughi, per cui è un percorso virtuoso, perché l'industria spesso, quando si concentra e segue un indirizzo che va verso la qualità e la nutrizione, lo riesce anche a cogliere. Ho visto che qui comunque stiamo servendo lasagnette e penne al pomodoro, farfalle al pomodoro. Ecco, è uno dei piatti apprezzati dagli americani. Beh, questa combinazione. Li prendiamo per la gola e li stendiamo tutti, perché andiamo a colpo sicuro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee. Da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Bocelli a Central Park mi ha riportato alla memoria Pavarotti a Central Park. Ogni tanto un grande cantante italiano conquista il cuore degli americani. Pavarotti, mi ricordo, lo fece nel giugno del 93 e riuscì a radunare 500.000 persone venute appunto per ascoltare il suo concerto. Proprio in chiusura Bocelli ha voluto dedicare una parte del suo concerto a Pavarotti, ha ricordato il grande cantante d'opera così amato dagli americani, e dunque noi chiudiamo proprio con una canzone che ha cantato ieri sera Bocelli e che cantò Pavarotti in duetto con Liza Minnelli, New York, New York. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.